Dal punto di vista tecnico, abbiamo prima la conferenza del professor Petrucci, che vorrei salutare cordialmente e ringraziare che è venuto per tenere questa conferenza. Er ist etwas im Gedränge und hat nur den heutigen Tag zur Verfügung, soltanto oggi può restare da noi purtroppo. E facciamo così prima la conferenza e dopo facciamo un piccolo intervallo e segue dopo la discussione vivace e più vivace che ieri, e vorrei dire: nessuno deve avere paura che dice o domanda una cosa. Spero bene. Ci sono cose che si può domandare senza pensare che dicono gli altri, ma lui o lei non sa questo. No, domandate. Ci sono cose dei quali siamo sicuri che molti non sanno, ma coraggio, e riusciremo bene. Allora posso pregare? Grazie. Dunque, innanzitutto devo chiarire che il titolo di questa chiacchierata è diverso da quello che è stato annunciato nel programma, cioè è scrittura e libro nel primo umanesimo. Devo chiarire il perché di questo titolo. Scrittura e libro, in quanto esamineremo qui, per quanto ci sarà possibile, sia un problema strettamente aleografico, cioè l'origine di un nuovo e diverso linguaggio, stile grafico, introdotto dai primi umanisti italiani, e questo riguarda la scrittura, sia il problema assai meno noto e affrontato finora dell'origine di un nuovo libro che accompagna parallelamente la nascita della scrittura umanistica. Nuovo libro inteso come nuovo strumento di studio, come anche nuovo mezzo di conservazione, di riproduzione, di diffusione dei testi. E anche, a un certo punto almeno, nuovo prodotto. Basta pensare alla bottega di Vespasiano da Bisticci a Firenze, il libro appunto che diventa il libro umanistico, questo nuovo tipo di libro, che diventa anche prodotto di un processo di produzione del libro stesso. Questo per chiarire i termini della chiacchierata, della lezione, come volete chiamarla, di oggi. È ovvio che è impossibile trattare un argomento di questo genere riprendendo tutta la tematica che finora è stata trattata da numerosissimi studiosi sulle origini dell'umanistica. Io naturalmente devo dare per scontate alcune cose. Spero che almeno dei dati più importanti della problematica relativa alla origine dell'umanistica tutti voi sappiate qualcosa, e non richiamerò opere fondamentali come l'Ullman o lo stesso Cencetti e così via, o altre trattazioni più particolari. Piuttosto accennerò a contributi recentissimi che hanno in qualche modo modificato quello che sapevamo circa le origini dell'umanistica. hanno posto dati e problemi nuovi e in qualche caso hanno proposto un metodo nuovo rispetto a questi problemi. In fondo, questa chiacchierata di oggi vuole essere un resoconto, in un certo senso, dei contributi più recenti e anche, se sarà possibile, questo lo giudicherete voi, l'apertura di prospettive nuove rispetto all'argomento che trattiamo. Parlerò sostanzialmente di due cose. Da una parte, l'origine della umanistica, della scrittura umanistica, che chiamerò antica, secondo la terminologia adoperata dagli stessi umanisti, e del libro umanistico, di questo nuovo appunto strumento di studio che gli umanisti ricostruiscono sulla base di antichi modelli, parallelamente alla scrittura, alla antica, e anche del problema della cosiddetta umanistica corsiva, che è l'altro strumento grafico, l'altro linguaggio grafico che gli umanisti pure adoperano parallelamente alla antica. Voi avete qua 5 tavole con un elenco delle tavole stesse. Via via, durante la esposizione, richiamerò queste tavole e voi siete pregati di naturalmente tenerle sotto gli occhi mentre tratto l'argomento relativo alle tavole stesse. Cominciamo dunque con l'origine dell'antiqua, cioè con quella scrittura che Poggio Bracciolini fa rinascere a Firenze nei primissimi anni del 400, imitando codice in Carolina. Questo è quanto sappiamo. Secondo quello che conosciamo attraverso gli studi di Ullmann, il primo esempio di questa scrittura nuova e vecchia nello stesso tempo, perché era una scrittura rinata, in quanto era riproduzione della scrittura carolina del X-XI secolo, secondo quanto sappiamo da Ullmann, il primo e più antico manoscritto di Poggio in questa nuova scrittura era un manoscritto contenente un'opera di Coluccio Salutati, il Devere Cumbia. Lo avete nella tavola 1, parte di destra, tavola 1B, diciamo. È un manoscritto che Poggio avrebbe scritto intorno al 1402-3. Prego. Sotto gli occhi di Coluccio stesso, che, come sapete, è morto nel 6. Dunque, la conclusione di Ullmann era che in Coluccio andava visto l'ispiratore di questa nuova forma grafica, cioè della rinascita della Carolina per mano di Poggio. Nella parte sinistra della stessa tavola voi vedete un altro manoscritto. È un manoscritto marciano, della Marciana di Venezia, contenente Catullo. È un codice famoso nella tradizione manoscritta di Catullo, che come sapete è tutta recente, e finora, benché fosse stato riprodotto integralmente, proprio per la sua importanza filologica, non era stato attribuito a nessuna mano conosciuta di scriba. Molto recentemente, in un articolo che ho citato qui nella didascalia alla tavola di Albinia della Mer e di Thomson, Poggio's Earliest Manuscript, in IMU, Italia Medievale Umanistica, del 73, la Delamere ha riconosciuto nella mano dello scriba di questo codice la mano di Poggio. Secondo un ragionamento che qui è superfluo riassumere, la Delamere conclude affermando che il Marciano di Catullo è più antico del Verecundia fiorentino, sarebbe degli anni 1400-1402, e perciò in questo manoscritto noi avremmo il più antico esempio conosciuto di antica di scrittura umanistica. Dunque, in questi due esempi noi possiamo anche vedere quali sono le caratteristiche grafiche di questa scrittura. È una scrittura di imitazione. Se noi la mettiamo a confronto con le scritture librarie adoperate a cavallo tra il XIV e il XV secolo, sia a Firenze, sia altrove, sia in ambiente umanistico, preumanistico come preferite, da un Petrarca o da un Coluccio Salutati, da un Boccaccio, sia nei normali centri scrittori che producevano libri di carattere universitario, scientifico, eccetera, notiamo una differenza di fondo. Infatti, questa scrittura è la riproduzione della Carolina, di una tarda Carolina del X-XI, anche XII secolo. Ed è tracciata, qui interviene il dato tecnico, con una penna che era la penna della gotica, che era la penna, cioè tagliata punta mozza a sinistra, che permetteva grossi contrasti di tratteggio e che non era la penna della Carolina, o almeno della Carolina del primo periodo, IX-X secolo, che era una penna tagliata invece centralmente, che non dava forti contrasti di tratti, dava una struttura molto fluida, con passaggi di chiaroscuro graduali. Poggio dunque ha avuto sotto gli occhi dei manoscritti in Carolina tarda e con la penna del suo tempo ha riprodotto questa scrittura. Che è, come dicevo, una scrittura di imitazione. Che la antiqua sia una scrittura di imitazione lo si trae non soltanto dalla visione diretta di questi esempi, bensì anche da esplicite dichiarazioni di umanisti, anche se non del Poggio stesso. Vi è un brano ben noto di una lettera di Ambrogio Traversari, in cui Ambrogio spiega come si può raggiungere l'eccellenza nello scrivere in antiqua. E non dice che si può raggiungere studiando a scuola di qualche altro calligrafo scriba, bensì invita a imitare direttamente un codice antico. Dice esattamente: io ti ammonisco a non dimenticare di prepararti una mano libraria ottima, celere, fedelissima, e di imitare e di studiarti di imitare quanto tu puoi quella antica purezza e eleganza nello scrivere. E per raggiungere più facilmente questo obiettivo, tu dovrai cercare di imitare ad unguem, dice, imitare ad unguem, né un antico esemplare, emendato, se lo troverai, emendato, nel trascrivere. Dunque, nel trascrivere bisogna cercare di imitare un esemplare antico ad unguem, sia dal punto di vista grafico, sia, naturalmente, questa è sempre una preoccupazione presente in tutti gli umanisti, dal punto di vista ortografico. Questo passo è riprodotto dal Wattenbach, pagina 270, e anche nel recente volume della Rizzo, a pagina 143. Scrittura di imitazione, dicevamo, e ce lo confermano anche le fonti. Ma che vuol dire scrittura di imitazione? La scrittura si impara di solito a scuola, sempre, ma si è imparata anche nel passato, di solito attraverso un meccanismo didattico, cioè di insegnamento. E questo avveniva anche nell'epoca a cui ci riferiamo, a cavallo cioè tra 300 e 400. E a scuola si insegnavano diversi tipi di scrittura, naturalmente. Sempre, non è a un livello più basso, scritture di tipo assai elementare, a un livello più alto, a secondo della finalizzazione della scrittura, tipi di scrittura che potevano essere appunto posati, perciò librari come finalizzazione, o tipi di scrittura corsivi per gli usi amministrativi, documentari, eccetera. Questo all'ingrosso è quanto è sempre accaduto, più o meno quanto accade anche oggi nella scuola, tolto l'aspetto librario, perché noi abbiamo libertà. Ma certo, fra 300 e 400, in questi anni in cui ci riferiamo, nessuno insegnava neppure a Firenze a scrivere una scrittura di questo genere. Cioè, riprodurre la Carolina. Il processo per imparare a scrivere l'antiqua era dunque un processo non didattico, e Ambrogio Traversari lo spiega molto chiaramente. Era un processo imitativo. Lo stesso Poggio, che era molto giovane quando ha scritto questi due esempi, conosceva altre scritture, aveva imparato a scrivere in altri tipi di scrittura a scuola, aveva imparato a scrivere in corsivo, scritture che continuerà ad adoperare in tutto l'arco della sua vita e nella sua attività pubblica, di scrittore, di segretario e in curia romana e in curia fiorentina poi, alla fine della vita. Aveva, dicevo, imparato a scrivere altre scritture. E l'aveva imparata a scuola. Ma questa l'ha imparata imitando. Imitando, cioè, come avrebbe poi detto, teorizzato Ambrogio Traversari, imitando esemplari in scrittura carta. In questo caso, nel caso di Poggio, in tutti e due gli esempi che avete sotto gli occhi, abbiamo un caso di imitazione complicato. Indiretto. Perché indiretto? Perché i due esemplari da cui Poggio copiava, sia nel caso del Catullo, sia nel caso del De Vere Cuglio, di Coluccio, non erano in Carolina, ovviamente. Il Catullo, perché sappiamo che Poggio lo ha copiato da un codice ottoboniano latino della Vaticana, oggi della Vaticana, che era di proprietà di Coluccio Salutari e che era in gotica. Dunque, in questo primo caso, a sinistra, Poggio copiava da un codice in gotico. Nel secondo, a destra, Poggio copiava da un manoscritto perduto, che conteneva il testo del De Vericundia di Coluccio, e che certamente, essendo quello un testo moderno, non era in Carolina, bensì sarà stato in Gotica anch'esso, a meno che non copiasse dalla minuta di Coluccio, che in questo caso era scritta in corsiva. Dunque, imitazione indiretta. Cioè, Porcio aveva esercitato la sua mano imitando codici in Carolina e poi ha applicato questa sua acquisizione di uno stile grafico diverso copiando questo e quest'altro codice e poi tutti gli altri. Ma il processo imitativo noi possiamo ricostruirlo se pensiamo a un'imitazione invece diretta, cioè a quando lo scriva, e questo vale non soltanto per questa epoca e per questo episodio della storia della scrittura latina, ma in generale ogni volta che ci troviamo di fronte a un processo di questo genere, cioè un processo imitativo. Ma quando lo scriva, dicevo, si pone dinanzi un esemplare e tenta di imitarlo. Questo è accaduto, per esempio, con l'onciale. Nell'alto medioevo, molti scrivi alto medievali di onciale non imparavano naturalmente l'onciale nel processo didattico normale, bensì cercavano di imitare l'onciale ponendosi dinanzi degli esemplari di onciale. In che cosa si distingue una scrittura di imitazione da una scrittura di insegnamento, cioè da una scrittura insegnata? Si distingue in questo, che la scrittura di imitazione non riproduce mai, o quasi mai, il tratteggio delle lettere, cioè non riproduce mai necessariamente il tratteggio delle lettere. Può anche riprodurlo, ma è un caso se lo riproduce. Perché lo scriba non impara a tratteggiare la lettera in quel modo, la riproduce come disegno, cioè la ricostruisce lui, la singola lettera, il singolo elemento grafico, cercando di imitarne le forme, ma non ne imita la struttura perché non la conosce, perché nessuno gliela ha insegnata. Che quella O, beh, la O forse è il caso meno adatto perché è facilmente costruibile sempre nello stesso modo, che quella E, che quella A, che quella G debba essere fatta in quel modo come forma, lo vede, perché la vede, ma che debba essere costruita secondo quel tratteggio non può intuirlo, la ricostruirà secondo un suo tratteggio, che sarà diverso, potrà essere diverso, quasi sempre diverso, da quello che sembra. Dunque, la scrittura di imitazione è una scrittura che riproduce le forme di disegno della scrittura che imita, ma non ne riproduce il tratteggio, se non casualmente. La scrittura di insegnamento è tutto il contrario. La scrittura di insegnamento, invece, poiché l'insegnamento è soprattutto insegnamento di tratteggio, la A si fa così, prima questo segno, poi questo, poi questo, la G si fa così, prima questo tratto, poi questo, poi questo, riproduce necessariamente il tratteggio. Può non riprodurre le forme, perché allontanandosi via via dall'epoca scolare, colui che ha imparato può modificare anche l'aspetto esterno della lettera, che non lo interessa, ma non modificherà mai il tratteggio che è rimasto connaturato alla sua mano, oppure molto raramente. Questa è una differenza fondamentale. L'umanistica dunque si presenta in questi due primi esempi e poi anche via via negli altri come una scrittura di imitazione proprio in questo. Infatti, se noi andiamo a ricostruire il tratteggio di queste lettere, noteremo, non lo si nota naturalmente nelle riproduzioni, lo si nota negli originali, che non solo il tratteggio di queste lettere non corrisponde o corrisponde assai di rado al tratteggio delle corrispondenti lettere della Carolina, ma non sono nemmeno costanti fra loro, cioè Porcio esegue la stessa G o la stessa A o lo stesso nesso et in modi differenti, perché il suo sforzo è soltanto imitativo dall'esterno, imitativo delle forme, non appunto dei tratteggi, e via via cerca di riprodurre quelle forme in modi anche diversi. E questo direi che è un dato estremamente importante. interessante. Quando l'umanismo, questo è un discorso che non entra, però è una domanda che naturalmente ciascuno si fa, quando l'umanistica diventa struttura di insegnamento? Quando comincia a essere insegnante? Molto tardi, estremamente tardi, verso la fine del secolo, e soltanto in alcuni casi, soltanto a livello superiore. L'umanistica non diventa in realtà mai struttura di insegnamento. Passerà nella stampa, sì, per un processo suo, è diverso, ma non diventa struttura di insegnamento. Se no, appunto, in casi rarissimi. Non so, Galeazzo Maria Sforza, per esempio, figlio di Francesco, ha imparato a scrivere in umanistica. Perché? Perché il padre ha voluto che scrivesse la scrittura più elegante del tempo, la più importante, la più elegante e la più importante anche socialmente. Ma questo è un altro discorso. Dunque, la imitazione in questi codici non si limita alla, come dire, alla scrittura. C'è un problema di imitazione anche di elementi ornamentali del manoscritto. Nell'esempio di destra, non in quello di sinistra, ma nell'esempio di destra voi vedete quelle strane capitali, no? Magistro Antonio De Baruffaldi, Fisico Faventino, Trattatus, eccetera. È il titolo. Ora, queste capitali non sono le capitali di tipo gotico che si adoperavano nei manoscritti del tempo, ma non sono nemmeno le capitali, le maiuscole insomma, che venivano adoperate nei manoscritti presi come esemplari da Poggio, cioè nei manoscritti in Carolina del X, XI e anche primo XII secolo. Cosa sono? In questo caso c'è stata una suggestione estremamente interessante di Gombrich, uno storico dell'arte ben noto, ripresa poi da Casamassi, che mi sembra molto giusta. Come dicevo, il processo imitativo è un processo complesso, in questo caso in modo particolare. Qui Poggio non ha imitato le capitali che trovava nei suoi esemplari, e non sappiamo perché. Ha imitato invece, era uomo di vasti interessi culturali che andavano al di là del fatto puramente librario e, come sapete, si interessava molto di epigrafia. Ha imitato invece la scrittura, gli esempi di scrittura che si trovavano in epigrafi romanici, di epoca romanica. Epigrafi medievali, XII. Toscana però, perché le epigrafi toscane dell'XI e XII secolo sono splendide epigrafi in una capitale che cerca anche in quel caso di imitare modelli più antichi. Basta andare a Pisa a vedere quelle che sono battiste. E Gombrich fa un parallelo assai interessante tra questo processo imitativo mediato di Poggio e l'analogo processo imitativo mediato del Brunelleschi, che aveva anche egli davanti agli occhi modelli romanici più che modelli classici. Tutto questo processo di ritorno al classico del primo umanesimo fiorentino è un ritorno mediato dalla grande civiltà romanica medievale, in realtà toscana. Questo è avvenuto anche nel caso di queste iniziali poggiane. In queste capitali, scusate, poggiate. Nella tavola numero 2 noi abbiamo una serie di esempi di scrittura antigua, non di Poggio, bensì di Niccolò Niccoli. Nella tradizione accertata dei nostri studi, nella munis opinio insomma, è Poggio l'inventore dell'antico, sia pure sotto gli occhi e per ispirazione di Coluccio Salutare. Questo trovate scritto in Ullmann. non si conoscevano, infatti, esempi di antiqua di mano di Niccolò Niccoli. Queste sono attribuzioni nuove al Niccoli, che ha affacciato con molta probabilità di essere nel giusto la Della Mera, ancora una volta, in una opera recentissima, anche questa citata alla, nella didascalia della tavola 2, nella sua Handwriting of Italian Humanists, che è, il cui primo fascicolo è stato pubblicato appunto a Oxford nel 73. Questa scrittura è molto simile a quella di Porta. Anche in questo caso si tratta di una antigua imitata da esempi di tarda Carolina, scritta con penna a punta mozza a sinistra, la penna del tempo, e direi con un certo artificio, un certo impaccio, lo stesso impaccio che si nota nei primi due esempi poggianti. Per quanto riguarda l'attività del Niccoli, da questo punto di vista, noi non sappiamo tutto e non riusciamo a capire tutto. È probabile che Niccoli facesse anche commercio come scrittore e che perciò questa sua attività di copista si inquadri in questa sua più larga attività di commerciante di codici. Certo è che la sua figura oggi va rivista dal punto di vista delle origini dell'antica. In realtà, in Niccoli è probabile che noi dobbiamo vedere il vero artefice della rinascita dell'antica e non più in Poggio. Questo non soltanto per questi esempi che abbiamo sotto gli occhi, ma per una serie di testimonianze che oggi, relative a Niccoli, ma che oggi possono essere lette in una chiave diversa. Nella vita del Niccoli, del Fonzio, c'è una frase piuttosto interessante. Di lui si dice: veterum elementorum formam in usum revocavit. Cioè, rimise in uso la forma delle antiche lettere, elementa in senso di appunto lettere. E Vespasiano, da Bisticci, ci dice che scriveva le copie di sua mano o di lettera corsiva o formata, cioè in antiqua, e finora esempi di antiqua non se ne erano trovati, li ha trovati la Della Mera, ripeto, che dell'una e dell'altra era bellissimo scrittore. Ma Niccoli non si è limitato a imitare la scrittura. Niccoli ha imitato il libro, caro lui. Questo è un fatto estremamente importante. È per questo che in lui che va visto, con tutta probabilità, il reinventore dell'antiqua e anche, allargando il discorso dalla scrittura al libro, come avevo promesso all'inizio, è anche colui che ha introdotto questo nuovo tipo di libro, nuovo e antico. Sempre il Fonzio, parlando del Niccoli, ne parla come di un inventor librorum ex ornandorum, cioè anche dell'ornamentazione del libro. Torniamo un momentino alla tavola 1 e vediamo la iniziale, e purtroppo le iniziali naturalmente in una riproduzione Xerox si vedono molto male, le iniziali dei due manoscritti, soprattutto del secondo, quello del De Vere Cumbria. È il primo esempio, abbiamo qui sotto gli occhi il primo esempio di queste iniziali cosiddette a bianchi girari, che sono tipiche del manoscritto umanistico fiorentino, toscano, poi italiano del 400, ma sono anche tipiche dei manoscritti carolini dell'undicesimo e del dodicesimo secolo. Queste iniziali erano iniziali che probabilmente Niccoli per il primo ha reintrodotto nell'uso librario. Lo sappiamo perché compaiono in tutti questi primi esempi di antiqua, sia quelli di Niccoli, sia quelli di Poggio, sia altri, fiorentini dei primi anni del 400, E perché nel 7 sappiamo che Leonardo Bruni spediva un codice a Niccoli perché fosse ornato, fosse miniato, nell'iniziale naturalmente non con figure, Vetusto More. Nel 7 si sapeva che l'unica persona che potesse fare eseguire, non certo che le facesse di sua mano, che potesse fare eseguire iniziali al modo antico era Niccolò Niccoli. Esiste poi un altro testo che è l'invettiva di Guarino Veronese contro Niccoli, che è la più bella invettiva che si possa lanciare contro un paleografo, anche oggi, perché finisce dicendo: ma guarda un po' come si debba perdere tutta la vita appresso a queste stupidaggini in forma di lettere, inchiostri, rigature, sono tutte cretinate. È una spia interessante, però, per ricostruire l'atteggiamento che Niccoli aveva verso il libro. Per un fatto, per esempio, estremamente interessante. Il libro, normalmente, il libro manoscritto nel 300 e perciò anche i primi del 400, veniva rigato a inchiostro. La rigatura veniva eseguita a inchiostro o a piombo, ma soprattutto a inchiostro. La rigatura a secco non si faceva più. La rigatura a secco, cioè eseguita con una punta metallica che lasciava soltanto un solco nella pergamena, che era stata la rigatura usata all'epoca tardo-antica per tutto l'alto medioevo, era stata abbandonata. Niccoli la resta, vuole che anche la rigatura riproduca il vecchio sistema. E Guarino lo dice, quando afferma che Niccoli sosteneva lineas acutissime non plumbeo stilo sed ferreo potius deducenda sess, che voleva che non fossero fatte a piombo o a inchiostro, bensì dovevano essere fatte col ferro, cioè con una punta metallica, cioè a quelle che noi chiamiamo rigatura a secco. Ecco un altro elemento imitativo, non relativo alla scrittura, bensì all'aspetto del libro. E infine Guarino, l'invettiva del 13, continua, cioè molto molto alta come epoca, continua a sostenere che Guarino e che Niccoli dava un'eccessiva attenzione a fatti esterni come l'aspetto della pergamena, il colore della pergamena, il colore dell'inchiostro e così via. Anche in questo possiamo pensare che si tratti di fenomeni imitativi. Niccoli, insomma, voleva che non soltanto fosse restaurata la scrittura carolina, l'antica, come loro dicevano, bensì anche il libro di quell'epoca. In tutti i suoi aspetti, le iniziali, la rigatura, l'aspetto della membrana, della pergamena, il tono dell'inchiostro e così via. Ma perché? Questa è una domanda che io ci propongo. Questo processo di restaurazione di una forma di libro e di una scrittura diverse da quelle in uso normalmente nella produzione libraria e grafica del 300 e del primo 400 è un processo assai lungo che affonda le sue radici appunto alle origini del preumanesimo, come volete chiamarlo, in questo siete più bravi voi, no? Queste cose le sapete, di quello che si può chiamare il preumanesimo italiano. È un processo che coinvolge sia la scrittura, dicevo, sia il libro, e che nasce da un fatto abbastanza preciso. Se pensiamo al libro normalmente in uso, e perciò prodotto librario, insomma, del 300, del 200, della fine del 200, del 300, al libro che poteva essere acquistato presso i centri che producevano per le università o anche nei centri religiosi ancora attivi dal punto di vista della produzione del libro e così via, abbiamo sì il classico libro gotico, quello che il libro scolastico, quello che è stato studiato da tanti, da Petri e compagnia bella. Un libro che era grande, era grosso, era a due colonne, aveva gli spazi per marginali per commenti, era ricchissimo di abbreviazioni, era una scrittura assai fitta, a noi sembra illeggibile, per loro era il libro più leggibile possibile, perché permetteva una rapidità di lettura enorme, naturalmente, perché l'abbreviazione, l'uso estremo di abbreviazioni serve a fare quella che oggi si chiama lettura rapida, aiuta la lettura rapida, naturalmente per gli addetti ai lavori, per coloro che sapevano, non per gli altri. Questo libro è tutto il contrario di quello che vediamo apparire in questi esempi, proprio l'opposto. Dunque, perché questo processo di restaurazione, dicevo? Perché questo libro gotico era un libro con un repertorio di testi estremamente limitato, di un da un certo punto di vista assai vasto. C'era tutta la scolastica, perché c'erano tutte le materie insegnate all'università, c'era una grossa tradizione di testi religiosi, naturalmente, ma non c'erano classici, ma non c'erano testi utilizzabili sul piano retorico, non c'erano i nuovi o i vecchi, come preferite, a secondo punto di vista, testi. Una volta che nasce questo ritorno all'antico, come volete chiamarlo, questo nuovo interesse per il testo classico, sia pure almeno all'inizio soltanto retorico come interesse, poi via via diventa un interesse più sostanziale. Quando nasce questo interesse, lo studioso che ha di questi nuovi interessi cerca i libri e non li trova naturalmente presso gli stazionari universitari, non li trova nei centri di produzione religiosi ancora attivi, non li trova in commercio, insomma. Deve cercarli nelle biblioteche che conservino vecchi fondi. E li trova. Ma non li trova in gotico, li trova in capolinea. Su tutti gli scrittori dei preumanisti italiani, dal Circolo Padovano, da Lovato, sino agli umanisti fiorentini del primo Quattrocento, passando per Petrarca, per Boccaccio, per Coluccio Salutare, i libri che portano la cultura nuova, perché l'antica, sono in Carolina. Questo è un dato fondamentale. Se poi ce ne sono in gotica, sono perché essi se ne sono fatti fare copie. Come è capitato a Petrarca, come è capitato a Coluccio. È ovvio che questo provoca un processo imitativo che all'inizio non ha la consapevolezza e la precisione che assumerà con Poggio Bracciolini, con Niccoli, cioè, scusatemi, io ripeto la comunista opinione in questo caso, con Niccoli e con Poggio Bracciolini, diciamo. Ma sarà un processo imitativo quasi inconsapevole, almeno a certi livelli. Abbiamo un esempio bellissimo in Lovato Lovati. Lovato Lovati è un uomo che appartiene in tutto e per tutto, come dire, alla cultura grafica del suo tempo, tra 200 e 300. Ebbene, nei pochi esempi che si conoscono, ne ha riprodotto uno, Villano, che c'è naturalmente, noi abbiamo un esempio di processo imitativo della Carolina, anche in lui, già in lui. Dio mio, si tratta della scoperta dell'America fatta dai Normanni, cioè non ha prodotto immediatamente delle conseguenze. Poggio e Niccoli hanno aperto una nuova era, cioè hanno scritto in una scrittura che poi tutti avrebbero usato. Lovato ha tentato, così più per gusto snobistico di studioso, di bibliofilo, che peraltro, di imitare la Carolina, ma già in lui era presente questo problema del rapporto diretto con l'esemplare, col libro Carolina. Lo stesso fa ad Avignone Landolfo Colonna, per esempio, il quale imita nella sua scrittura di nota, nella sua Glossenschrift, imita la Glossenschrift Carolina. Lo stesso, naturalmente, con assai maggiore consapevolezza e con risultati meno diretti nell'imitazione, farà Petrarca, farà Coluccio Salutare. Passeremo così attraverso quella fase che chiamiamo semigotica, una scrittura gotica che perde via via di compattezza, che abbandona un certo numero di abbreviazioni, con Coluzzo Soldati avremo addirittura degli elementi proprio carolini reintrodotti nella scrittura, il Nesso Est per esempio. E infine, col Niccoli, grazie alla sua, come possiamo dire, tendenza maniacale all'imitazione, la riproduzione della scrittura e del libro carolino. Questo dunque per quanto riguarda la rinascita dell'antica. Ma, come ho detto all'inizio, io devo parlare di due cose, anche del cosiddetto problema della umanistica corsiva, che è un problema assai complesso, molto aperto ancora, su cui non abbiamo delle conclusioni precise e che probabilmente non sarà risolto molto rapidamente, anche perché io credo che così come è stato impostato finora non sia risolvibile. Ma questo lo vedremo anche discutendo. All'inizio di questa scrittura, cioè della scrittura corsiva degli umanisti, insomma, abbiamo ancora una volta Niccolò Niccoli. Vi prego di prendere la tavola numero 3. Anche la tavola numero 3 è tratta dal volume della Delamere che ho citato prima. E ne troverete, come al solito, l'indicazione nella lettera. Questa scrittura di Niccoli è chiaramente una scrittura corsiva. Ed è stata considerata da Luhlmann addirittura il sistema rivale dell'altra, dell'antiqua. In realtà, almeno per quanto riguarda questo episodio, Niccoli, cioè la scrittura corsiva di Niccoli, si tratta soltanto di un episodio personale. Non ha avuto una storia dopo di sé questo tipo di scrittura che Niccoli ha inventato, anche in questo caso si può dire, non questa volta con un processo imitativo, pensi con un processo, come possiamo dire, di contaminazione. Usando come base la scrittura corsiva della sua epoca e introducendo in essa elementi dell'antiqua. Questi elementi di antiqua sono la D diritta, la G, che è propriamente una G dell'antiqua, anche il nesso et, che si trova per esempio, ecco facciamo degli esempi, nell'esemplare, nella riproduzione in alto a destra, all'urrigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, abbiamo et in iure, no? Oh. Ecco, quel nesso et è una novità dell'antiqua, in un contesto corsivo non lo si era mai visto. E così questi altri elementi che dicevo, in più tutto l'aspetto della scrittura che è abbastanza singolare ed è anche molto armonioso. Così anche quelle maiuscole che vedete nel primo esempio a sinistra, mi anima Cellini, Rerum Gestarum. Anche l'S diritto, infine, di parola è un'altra novità di imitazione dell'antiqua. Dunque, questo sarebbe il primo esempio di umanistica corsiva e, come di solito si dice, da questo deriverebbe tutto il filone, i filoni dell'umanistica corsiva che troviamo sia nell'uso librario, sia nell'uso di cancelleria, per esempio, per tutto il 400 italiano e poi, perché questa è anch'essa una scrittura che ha avuto una lunghissima vita, anche fuori d'Italia. Già nel 63, James Wardrop, nel suo Scritto of Humanism, dava un giudizio piuttosto duro degli studi fino allora compiuti sulla scrittura corsiva, che lui chiamava italica. Le origini dell'italica sono incerte, le sue variazioni non ancora classificate, molti dei suoi usi speciali non conosciuti. Sosteneva che c'erano stati una serie di interventi molto dilettanteschi e che si era accumulato un enorme ammasso di detriti di studio che andavano rimossi per capire qualcosa di questa scrittura. Beh, forse qualcosa si può capire girando e trovando la tavola 4. È un elemento che non fa che complicare tutto quello che sappiamo intorno agli usi grafici degli umanisti. È una lettera di Niccoli. E nessuno si era accorto che era sua. Perché nessuno poteva attribuirgliela sul piano grafico. Ma il Foffano, molto recentemente, in un articolo che qui è indicato, Cosimo e le ricerche di Poggio nelle biblioteche francesi, in IMU del 69, il Foffano, con argomentazioni di carattere interno, come dire, storico-filologico, inoppugnabili, dimostra che si tratta di scrittura di Niccolò Niccoli. Ora, Foffano non lo dice, ma questa scrittura non ha niente a che vedere con la corsiva che abbiamo visto a tavola, nella tavola precedente. Ma certamente di Niccoli. Che scrittura è questa? Questa è una mercantesca. Cioè, è quella scrittura che a Firenze, in Toscana, e non soltanto a Firenze in Toscana, veniva adoperata nell'uso comune e quotidiano, e perciò la ritroviamo in lettere, in conti, in registri di aziende, da operatori economici, diciamo così, operatori economici, da artigiani dell'Italia del tempo, soprattutto toscani, ma poi anche non toscani. È una scrittura di volgare, e soltanto di volgare. Ma questo per una ragione molto semplice, che chi impara a scrivere questa scrittura in scuole, in genere scuole di abaco, scuole tecniche, insomma, ben separate dalle altre, non apprende il latino, non lo sa, se non in casi eccezionalissimi a un livello molto elementare. Sa soltanto l'italiano, il volgare, insomma, e scrive in volgare. Niccoli veniva dalla famiglia di mercanti. È più che logico che la sua base di partenza grafica fosse questa scrittura, non un'altra. Niccoli non aveva compiuto studi universitari, Niccoli veniva da una famiglia di mercanti, lui stesso si è occupato di commercio, e a scuola, da bambino, da giovinetto, di solito tra i 7 e i 10 anni, i 12 anni, avrà imparato in una scuola d'abaco questa scrittura. E quando non voleva far sfoggio, come dire, della sua cultura grafica assai complessa, usava questa. Soprattutto in un testo volgare, anche lui aveva perfetta consapevolezza, diciamo così, della finalizzazione dei diversi tipi di scrittura che conosceva. Allora, è chiaro che un problema come quello della origine e dello sviluppo della scrittura corsiva adoperata dagli umanisti non può essere visto soltanto in una prospettiva interna al problema stesso, cioè esaminando soltanto le scritture corsive degli umanisti. Va visto invece, soprattutto perché si tratta, quando si tratta di scrittura corsiva, di una scrittura che non è limitata all'uso dei libri, ma è una scrittura di documenti, una scrittura di cancellerie, è una scrittura di uso molto vasto, si tratta di collocare gli esempi di corsiva usata dagli umanisti in un quadro del panorama grafico generale del 400 e del 400 italiano. Ed è questo che non è stato fatto, ed è questo che occorre da fare. A questo punto certi problemi si chiariranno o dimostreranno la loro, come dire, vanità. E adesso naturalmente non è che abbiamo il tempo per fare un discorso di questo genere. E non siamo forse nemmeno maturi per farlo. Ma certo è che l'antico da una parte e anche gli usi corsivi degli umanisti non nascono nel vuoto, nascono in un panorama appunto estremamente complesso, grafico, che non è più organico, che non è più unitario, perché nel 300 lo era, perché nel 300 esisteva un panorama grafico in Italia assai organico, per cui certi libri si facevano in goto, a scuola si insegnava un certo tipo di scrittura, la mia scuola non c'era vista corsiva, non c'era frattura ancora così profonda tra cultura volgare e cultura latina, e chi scriveva la minuscola cancelleresca conosceva anche la gotica, e chi leggeva un libro in gotico sapeva scrivere anche in minuscola cancelleresca. E non c'era un abisso tra le varie forme grafiche e nemmeno tra le varie forme di cultura. Nel 400 è tutto diverso. Nel 400 in genere non tutti sanno scrivere tutto, ecco. Tra chi sa scrivere naturalmente, cioè in una percentuale assai minima della popolazione adulta. Comunque coloro che sanno scrivere non sanno scrivere tutto. Esistono delle partizioni molto precise nell'uso grafico che hanno di rado contatti tra loro. Chi scrive in mercantesca non scrive in umanistica corsiva, però l'umanistica corsiva ha alle spalle appunto questo panorama assai vasto di scrittura anche dell'uso del documento. C'è insomma un quadro di pluralismo grafico assai complicato, che appunto poi all'inizio del 400 ancora non è chiarito del tutto. Ecco qui un Niccoli, il quale scrive una lettera ancora nella scrittura imparata a scuola da bambino e nello stesso tempo elabora nuove forme grafiche sia in campo librario dell'antico sia in campo librario ancora in corsivo. Era la sua manus velox, quella che adoperava quando copiava molto rapidamente. Gli umanisti avevano un chiarissimo, a un certo punto, verso la metà del 400, una chiarissima consapevolezza di questo, cioè di queste differenze tra gli usi dei vari tipi di scrittura. C'è una lettera di Ennio Silvio Piccolomini in cui rimprovera un amico che gli ha scritto in modo illeggibile. Addio, gli dice, e sappi che io ho imparato latinas litteras, non uncinos mercatorios, non gli uncini dei mercati. Uncini, cioè una scrittura che appare in forma uncinata, di uncini, illeggibile, strana, è la mercantile. C'è un disprezzo addirittura a questo punto, è una lettera del 1454, un consapevole disprezzo verso la scrittura degli altri, la scrittura degli ignoranti, la scrittura che è adoperata soltanto a livello commerciale dei mercanti, la scrittura degli indotti, di quelli che non sanno il latino, poi in realtà il discorso diventa anche di questo. Anche questa testimonianza, che finora i paleografi non hanno utilizzato, è nel volume di Silvia Rizzo, Il lessico filologico degli umanisti, Roma 1973, estremamente interessante. Ma insomma, allora, questa umanistica corsiva, insomma, questa scrittura corsiva del 400, che sia pure in forme diverse dai vari esempi, troviamo però diffusissima, diffusa più dell'antica, che certo non è più la corsiva del 300, si presenta appunto, dicevo, in forme diverse, ma la troviamo dappertutto, la troviamo in codici, la troviamo nei documenti cancellereschi, la troviamo addirittura in mano ai notai a un certo punto almeno del secolo. Come nasce? Cos'è? Che rapporto ha con l'antica e con questo processo di restaurazione di cui abbiamo parlato, che rapporto ha con questo tentativo isolato del Niccoli dei primissimi del secolo di fare una corsiva che avesse elementi dell'antico? Cencetti, nel 1954, nei suoi lineamenti di storia della scrittura latina, aveva affacciato, in alcune pagine sono molto belle, molto importanti ancora oggi, l'ipotesi di un'origine intercancelleresca, cioè questa scrittura sarebbe nata per la presenza fisica di molti umanisti in numerose cancellerie dei vari stati italiani dell'epoca. Sappiamo che tanti umanisti italiani di prima e di seconda generazione sono stati segretari o scrittori e nella cancelleria pontificia e nella cancelleria fiorentina e poi anche in quella di Napoli, per esempio. Bene, Cencetti indica in questo, soprattutto nella presenza di un folto numero di umanisti nella segreteria dei brevi pontifici, una delle ragioni per la diffusione di una corsiva ricca di elementi umanistici nelle cancellerie italiane. Su questa linea, abbiamo avuto molto recentemente due saggi che ci vengono dalla Germania, di Peter Herde, Die Schrift der Florentiner Behörden in der Frührenaissance, che è stato pubblicato nell'Archivio Diplomatique, e quindi, questo su Firenze dunque è la Cancelleria Fiorentina, e quindi di un allievo di Herde, Thomas Frenz, sulle forme umanistiche nei documenti della Cancelleria Pontificia. Anche questo sull'Archivio Diplomatico, l'uno del 71 l'articolo di Herde, l'altro del 73 l'articolo di Frenz. Sono dunque, dicevo, su questa linea. Anche il titolo stesso dell'articolo di Frenz dimostra qual è il filone di ricerca su cui si muovono questi due studiosi. Rintracciare, cioè nella corsiva adoperata nei documenti delle cancellerie rispettivamente di Firenze per Herde, di Roma, Curia Papale per Frenz, rintracciare di fino elementi di antiqua, elementi umanistici, via via che sono stati introdotti. Uno dei risultati più interessanti di queste due ricerche è che all'interno della stessa cancelleria, Firenze o Roma, troviamo numerose differenze dal punto di vista grafico nella corsiva adoperata nei documenti, nei registri, nei documenti originali. Numerose differenze, dicevo, tra ufficio e ufficio. Non tutti gli uffici si muovono sulla stessa linea, non tutti gli uffici adoperano la stessa scrittura. Questo mi sembra estremamente interessante. È evidente che ci sono delle presenze anche fisiche di personaggi, umanisti, secondo la suggestione di Cencetti del resto, che influiscono su questo. Ma in realtà forse il problema della corsiva umanistica, della corsiva adoperata dagli umanisti, preferisco questa espressione piuttosto che l'altra, è un problema che va visto anche sotto un altro aspetto, non soltanto sotto quello dei documenti di cancelleria che è stato illuminato recentemente da questi saggi di Herde e di Frenz. Ed è un punto di vista che recentemente ha posto in luce Emanuele Casamassima, che è uno studioso italiano che si è occupato in modo particolare di scritture umanistiche del tardo umanissimo e del Rinascimento, e ha una grossa esperienza in questo campo. Casamassima ha pubblicato un saggio che è una prefazione a un'opera di due suoi allievi, Carotti e Zamponi, Lo scrittoio di Bartolomeo Fonzio, umanista fiorentino. Ripeto, Carotti S. Zamponi. Lo scrittoio di Bartolomeo Fonzio, umanista fiorentino. Ah, ma lo cito. scusate, è nell'elenco. È nella prima pagina. Ecco, dunque, in questa introduzione a quest'opera, che ha un suo titolo, l'introduzione, Literule Latine, curioso, Casamassima invita a seguire anche per la corsiva una ipotesi di lavoro parallela a quella che si segue per l'antiqua, basata cioè sull'ipotesi della imitazione, anche per la corsiva, almeno in alcuni casi, ove cioè la presenza di elementi antichi è maggiore, anche in questo caso noi possiamo pensare a un'influenza di modelli. Caro lui. In realtà, questo era apparso anche in un accenno di Wardrop, per esempio, in quell'opera che ho citato prima, eccetera. C'è una tavola nello Châtelet, la paleografia dei classici latini, che è molto interessante da questo punto di vista. La tavola 80 del primo volume dello Châtelet, per chi voglia controllare, eventualmente, dove abbiamo una Carolina del X-XI secolo corsiveggiante che sembra proprio una umanistica corsiva della prima metà del Ma Casamassima ha il merito di avere ricostruito un intero filone di scrittura corsiva di umanisti italiani non fiorentini, e questo mi sembra molto importante, perché finora l'attenzione è stata posta sempre e soltanto su Firenze, che dimostrano chiaramente nel loro tipo grafico di imitare elementi di scrittura corsiveggiante antica carolina. E il primo è l'Aurispa, di cui Casamassima pubblica un esempio del 1413, che sembra una imitazione proprio di Carolina del IX secolo. E perché del IX secolo? Perché la Carolina del IX secolo conserva, la prima Carolina, cioè la Carolina del primissimo periodo, elementi corsivi, è inclinata a destra, è una scrittura che ha un aspetto corsiveggiante. Imitare la Carolina del primo IX secolo, anziché quella tarda del XI-XII, come hanno fatto Niccoli e Poggio, significa cambiare completamente prospettiva, avviarsi cioè a una forma corsiveggiante di scrittura. E questo filone, dall'Aurispa, Casamassima lo ricostruisce attraverso Guarino Veronese e il Guarino degli insulti a Niccoli, che abbiamo ricordato prima, poi Biondo Flavio, infine anche Ciriaco d'Ancona, e poi Felice Feliciano e Bartolomeo Fonzio. Ecco qui l'esempio numero 5, dove abbiamo questa corsiva ricchissima di elementi umanistici del Fonzio, che giustifica tutto il discorso di Casamassima alla fine. Siamo alla fine del discorso, e anche alla fine di un discorso sulle scritture umanistiche. C'è da dire un'ultima cosa, che il Fonzio arriva sino all'inizio del Cinquecento e siamo ben lontani dai nostri limiti cronologici, ma permettetemi di accennare anche a questo, tanto per dare una conclusione al mio discorso dal punto di vista cronologico. La corsiva usata dagli umanisti ha portato, proprio nell'ultimo quarto del Quattrocento, a un esito assai importante, sul piano propriamente liberale. Nell'area veneta, Padova soprattutto, e poi Venezia, abbiamo in questo periodo l'attività prodigiosa di un calligrafo di grande rilievo dal punto di vista proprio artistico, perché qui a questo livello possiamo parlare di scrittura come forma d'arte, Bartolomeo San Vito. A San Vito dobbiamo una scrittura corsiva che chiamiamo normalmente l'italica, usando il termine che viene adoperato poi per lo stesso carattere in tipografia. Una scrittura corsiva, italica, di grandissima eleganza, che praticamente non ha alle spalle nessun modello, che è una reinvenzione sia pure ponendosi in questo filone di cui Casa Massima ha ricostruito i precedenti. Ma a San Vito dobbiamo un'altra cosa. Dobbiamo la nascita del libro moderno. Abbiamo già detto che gli umanisti ricostruiscono un libro diverso da quello gotico, il libro carolino, ma non è ancora il libro moderno. Il libro che noi usiamo portare in mano, in tasca, leggere in tram, leggere in treno, l'ha inventato San Vito. Non è più il libro grosso, grande, con i grandi margini dove si deve porre il commento. È un libro con i margini piccoli, molto piccolo di formato, libro da tasca, libro da mano, ove soprattutto non si deve porre il commento. E questo è molto importante. Non è il libro da tavolo, da studio, da tradizione universitaria o da tradizione di studiosi umanistici. È un libro senza margini dove non si deve scrivere, che si deve solo leggere. È il nuovo tipo di lettura, il tipo di lettura moderno, quello silenzioso oltretutto, che nasce appunto, si diffonde soprattutto in quest'epoca, non nasce, ma si diffonde soprattutto in quest'epoca. È un libro da dilettanti dello studio. Ora, mi pare che sia abbastanza interessante che questo libro nasca per mano del San Vito in queste epoche e sia infine trasferito immediatamente nella stampa da parte di Manuzio nella sua collezione di testi, che nasce nell'1-2, di testi classici italiani e classici latini, che cominciano a Petrarca sotto gli auspici del Bembo e continuano. È una collezione di libretti da mano, appunto, in corsiva, nella stessa scrittura del San Vito, tradotta in caratteri tipografici, e che apre una nuova era nella storia del libro. È abbastanza interessante vedere come la storia della scrittura corsiva umanistica approdi poi a una forma di libro che non ha più nessun rapporto né con il libro carolino né con il libro medievale. Ora, conclusioni. Dunque, io direi che sul piano così del metodo si può dire che da questa chiacchierata credo sia risultato abbastanza chiaro un fatto di fondo, cioè che non si può fare un discorso di storia della scrittura se non si fa anche un discorso almeno di storia del prodotto grafico corrispondente, un libro, o se trattiamo di scrittura documentaria, il documento. Secondo, che mi pare molto importante, che quando si studia una forma grafica o un prodotto grafico, se ne studi anche la funzione che questa forma grafica o questo prodotto grafico ha nella diffusione della cultura all'interno di una determinata società. Funzione della scrittura è appunto questo, cioè la funzione che alla scrittura stessa danno coloro che la adoperano e coloro che l'hanno inventata, nel caso di tratti di invenzione. E infine, elemento finale, che non si può prescindere mai da un discorso che veda anche la diffusione nella società della scrittura stessa e del prodotto grafico che le corrisponde, perché è quello che ci dà la coordinata, diciamo così, metodologica per capire la funzione che sia la scrittura stessa sia il prodotto grafico hanno nella società stessa. E ho finito. In uns aller Namen herzlich danke für ihre so klare istruktive Konferenz, in der Sie uns an praktischen Beispielen einen sehr wichtigen Prozess erläutert haben, in dem Sie davon ausgingen, dass es sich nicht nur um eine neue Schrift, sondern auch um ein neues Buch handelt und sich daher die Frage nicht nur nach dem Ursprung der Schrift, sondern auch nach dem Ursprung eines neuen Buches stellt. Es ging zuerst um den Ursprung der Antiqua, wobei sie an Beispielen von Porto und Nicoli zeigten, dass es sich um eine Imitation der karolingischen Minuskel handelt, der Karoliner, und eine indirekte Imitation, was ich besonders interessant gefunden habe auch. eine Imitation, die zur Form, nicht zur Struktur zunächst. Und interessant auch eine Imitation einer Schrift, geschrieben mit einer Feder einer anderen, also der gegenwärtigen Zeit. Sie sprachen dann näher über, ging dann um die humanistische Kursive in ihren verschiedenen Ausformungen, dann der Mercantesca und der Cancellaresca all'antica, und sie kehrten damit wiederum zurück, wie auch die Schrift, vor allem die Kursiva, zur Bildung, zur Formung eines neuen Buches führte. Herr Petrucci hat selber seine Konferenz am Schluss zu treffen zusammengefasst, und dass ich, glaube ich, dem nichts mehr hinzuzufügen habe, als nochmals meinen besonderen Dank. Und ich hoffe, dass die Diskussion noch weiteres dazu ergeben wird. Jedenfalls steht allen Fragen Herr Petrucci zur Verfügung, allerdings erst nach einem kleinen Intervallo von 10 Minuten der Brennere und Kaffee der Fahrwald. Non esistono domande sciocche. Lei ha parlato della scrittura carolina e un poco ha anche spiegato a qualcuno delle ragioni per cui questa scrittura è stata adottata al primo umanesimo. Sì. Io vorrei sapere se quelle che lei ha detto, cioè che in pratica gli umanisti sono trovati davanti i classici scritti con questa grafia, sì, sia l'unica ragione o se ne sono le altre, sì, di diffusione, ragione, non so, cosa altro possibile, ragione della scelta di questa scrittura è piuttosto più lunga. Sì. Le ragioni di questa scelta sono anch'esse complesse e risiedono anch'esse in questo lungo processo di restaurazione che ho accennato. Cioè, qui bisogna tornare un pochino indietro. È vero che, almeno per i primissimi esempi di riproduzione di Carolina, ho accennato a Lovato, ci troviamo di fronte a esempi di imitazione non consapevoli, appunto, di un rapporto soltanto diretto con l'esemplare dovuto a quelle ragioni che ho accennato, cioè al fatto che gli umanisti, i primi umanisti, si trovavano sul tavolo, appunto, codice in Carolina. Petrarca, non ne ho parlato per ragioni di tempo, teorizza questo rapporto, in quanto indica nella Carolina una scrittura valida non soltanto perché contiene un determinato tipo di testi che i libri del tempo non avevano, ma perché in sé bella, in sé elegante, castigata et clara la chiama, una scrittura che è, cioè, diversamente dalla gotica, chiara e semplice, la quale dice ancora in un passo di una lettera, è così chiara che arriva direttamente alla mente, mentre invece la scrittura gotica gli appariva piuttosto opera di pittori che non di scrittori, cioè una scrittura in cui l'elemento estetico, possiamo tradurre in questi termini, l'elemento estetico prevaleva sull'elemento della leggibilità e della chiarezza. Da questo giudizio di Petrarca è derivata un'interpretazione, piuttosto forse semplicistica, secondo la quale gli umanisti avrebbero scelto la lettera antica contrapposta alla moderna, perché la lettera antica, cioè la Carolina, presentava per le sue proprie caratteristiche grafiche ragioni di chiarezza e di leggibilità maggiori che non la gotica. E così appare in realtà ai nostri occhi, perché se noi ci mettiamo davanti agli occhi una pagina di codice in gotica e una pagina di codice in carolina, e penso che chiunque abbia fatto un esame di paleografia lo sappia, perché avrà sempre chiesto che gli capitasse di leggere non già una tavola in Gotica, bensì una tavola in Carolina, tutti noi leggiamo con molta maggiore facilità un foglio in Carolina che non in Gotica. Questo deriva dal fatto che noi siamo educati a leggere in Carolina da quando siamo bambini, perché la nostra scrittura stampa è la Carolina, per conseguenza proprio di questa rinascita imposta dagli umanisti e poi passata nella stampa. Voglio dire che per il mondo in cui operavano un Petrarca o altri umanisti del suo tempo, la Gotica era la scrittura più leggibile, in realtà. Perché? Perché la Gotica, attraverso la rapidità di lettura, l'enorme capacità di separazione del discorso che ha attraverso una ricchissima serie di segni ausiliari della scrittura, il paragrafo, le rubriche, le iniziali, la punteggiatura, è la scrittura meglio adatta al tipo di cultura che esprime, la cultura scolastica. Se infatti noi poniamo a fronte sempre un esempio in Carolina e un esempio in Gotica, vediamo che l'esempio in Carolina è molto più povero di elementi ausiliari di lettura che non quello in Gotica. Non ha punteggiatura, o ne ha molto scarsa, molto spesso ha la scrizio continua, cioè le parole non sono separate tra loro. Ha poche abbreviazioni, d'accordo, ma per chi conosca a fondo, come lo conosceva uno studente, uno scolare, uno studioso del 2-300, il sistema abbreviativo, la presenza di numerose abbreviazioni era un ausilio alla lettura, non un impaccio, come è per noi. In realtà Petrarca queste cose le sapeva benissimo. E non a caso non adopera la Carolina quando scrive, non è il restauratore della Carolina. In Petrarca c'è un atteggiamento duplice. Lo ha già spiegato Lionello Venturi in un articolo sull'estetica di Petrarca. Il rapporto tra Petrarca, cioè le opere d'arte del suo tempo. Petrarca ama le opere d'arte del suo tempo. Parla contro il gusto estetico del suo tempo, molto spesso, ma in realtà poi ama Simone Martini. E c'è un rapporto duplice con anche le forme grafiche del suo tempo. Parla male della scrittura del suo tempo, ma in realtà poi quello che odia di più nella scrittura del suo tempo è la scorrettezza ortografica degli scritti di scritture scolastiche che operavano nell'ambito dell'università. E poi scrive in una forma che chiamiamo semigotica, sì, ma che sostanzialmente è ancora una scrittura gotica. Perciò, l'adozione della Carolina da parte degli umanisti è avvenuta gradualmente e corrisponde anche a un momento di piena affermazione di questa nuova cultura che si esprimeva anche attraverso un tipo di produzione del libro completamente diverso da quello gotico scolastico. E nello stesso tempo, a un periodo in cui la cultura universitaria era in decadenza, non era più una cultura assolutamente egemone nella società, e tantomeno sul piano della produzione del libro erano egemoni, alla fine del 300 e 1400, i centri scrittori universitari, i centri scrittori religiosi. Cioè il problema è molto complesso. Nasce anche un nuovo tipo di produzione del libro, che non è più produzione del libro nei centri religiosi o nei centri universitari, ma è un tipo di produzione del libro fatto dagli umanisti per la loro cerchia, per i loro amici. Un tipo di produzione del libro privato che è molto differente da quello precedente. E in questo tipo di produzione del libro sganciato, almeno in un primo momento, dalla produzione commerciale, che troviamo le ragioni di una scelta anche di nuovo modello. Si rompono le tradizioni con la produzione libraria scolastico-gotica, si trova questo nuovo modello, lo si impone nell'uso. Soltanto alla metà del 400 quest'uso diventerà poi anch'esso uso di produzione, uso di bottega, uso di scrivi professionisti e così via. Ma io credo che le ragioni fondamentali della scelta siano ancora e soprattutto quelle. Cioè, da una parte la presenza del modello di libro carolino, dall'altra la impossibilità, e per questo forse non abbiamo detto, la impossibilità del sistema in decadenza di produzione del libro scolastico universitario di riprodurre questi testi nuovi. Impossibilità per tante ragioni, impossibilità perché non appartenevano questi testi al circuito librario normale, impossibilità perché gli scribi di centri universitari o religiosi non avevano la cultura per copiare questi testi, non l'avevano anche sul piano ortografico. Una delle esigenze è la restaurazione dell'ortografia corretta, la reintroduzione dei dittonghi, per esempio, o della corretta lezione, per esempio, del Michi. Non deve essere più Michi, ma Michi, c'è una grossa polemica in questo. Ecco, tutte queste cose uno scriba normale di produzione gotica, scolastica, non poteva garantirle. Le garantivano gli umanisti stessi, producevano i loro libri per sé. Stesso Petrarca l'ha fatto Boccaccio, l'ha fatto Coluccio. In una scelta di produzione fuori dei modelli scolastici è facile che si imponga un modello di tipo nuovo, in questo caso di tipo antico. Prego. Cioè, la scrittura, tipo e cursiva, vengono usate dai umanisti indifferentemente, oppure ogni scrittura ha un uso specifico? Sì, sì. Non vengono usate indifferentemente. In genere le scritture, quando siamo in un quadro di pluralismo grafico, cioè di molti tipi di scritture che contemporaneamente si adoperano, non è mai indifferente la scelta dell'uno o dell'altro tipo. Questo è un fatto fondamentale, mai indifferente. Gli umanisti sono in genere uomini di più scritture, ciascuno di loro sa usare più scritture, su questo non c'è dubbio. Partendo da questo, è evidente che quando ne adoperano una invece che l'altra, lo fanno secondo una scelta precisa. La corsiva veniva di solito adoperata per, come ho detto per i Niccoli, per le copie, per le minute, oppure per i testi che dovevano essere copiati rapidamente, cioè si trovavano con poco tempo in una biblioteca. E allora interveniva quella che loro chiamavano la manus velox, cioè la scrittura corsiva. Si risparmiava effettivamente tempo, anche se non molto. Quando invece si doveva fare il libro elegante, si preferiva di solito ricorrere alla antiqua. Tutto questo avviene fino a un certo periodo. Poi però, quando la corsiva essa stessa diventa scrittura elegante, come nel secondo 400, allora avremo libri elegantissimi scritti indifferentemente, ora in antiqua, ora in corsiva. Allora sarà indifferente, quando cioè anche la corsiva di Tacito sarà diventata alto prodotto di calligrafia. Il Sinibaldi, per esempio, era scrittore indifferentemente di antiqua e di corsiva. Il San Vito stesso, l'ho detto, e tanti altri. A questo livello però siamo nel campo veramente del gioco calligrafico, non più di una scelta consapevole di scrittura. Anche perché è intervenuta la stampa. Anche perché è intervenuta la stampa, naturalmente, che ha cambiato tutti i termini del gioco. Perché proprio forse un punto nella seconda fase, diciamo, nella fase più tardiva dell'umanistica, che è il grosso problema del rapporto tra stampa e scrittura, che esula un po' dal nostro problema, ma che pur tuttavia incide sulla stampa, sulla scrittura, introduce quello che giustamente adesso tu chiamavi anche il gusto del gioco scrittorio, perché è un fatto giustissimo, ha una sua importanza. Professore, io volevo dire qualcosa. Mi sembra di aver capito dalla esposizione che ci si orienta verso una visione di questo prodotto scrittorio tanto importante quanto quale è stata appunto l'antiqua, come un prodotto scrittorio estremamente, diciamo così, riservato, privato, diceva prima del Lucci, cioè un qualcosa che era nelle mani di pochissimi colpi, cioè una manifestazione di elite nella elite, di quella che era l'ente, che possedeva le lettere, po' di cultura, vero? E adesso, sentendo parlare anche di, come la domanda della signorina di Roma ha provocato, addirittura di un gioco grafico, calligrafico, tra antiqua e corsiva, il concetto si irrobustisce ulteriormente. Cioè, questi posti avevano ormai una specie di impero nel mondo della produzione grafica. Sì. E io non sarei tanto portato, per questo un'idea mia, a distinguere libro da manifestazione grafica complessiva, generale. Ai miei figli, adesso per quello che dirò immediatamente dopo, anche se Luci ha fatto capire che insomma è tutto un nuovo modo di vedere e di procedere, quindi di produrre il libro. Ma forse questa nuova visione del libro è una premessa a quello che io sto pensando adesso, cioè io adesso comincio a vederla come una grossa arma in mano a questi umanisti, così super colti nella proporzione, è vero? E questo mi fa subito andare con la mente a un altro concetto che abbiamo sentito stamattina, cioè quello dell'attività di questi studiosi nelle cancellerie. Questa attività di questi studiosi nelle cancellerie, almeno nel modo di vedere, così che non sono poi, non ho approfondito mai questo problema negli studi, ma mi sembra che appunto possa essere derivato loro semplicemente da questa supercultura grafica e complessiva. E noi abbiamo assistito nella cancelleria pontificia a questo grosso mutamento, che forse è più grosso di quanto ci si possa immaginare sulla base di studi finora compatti, cioè di questo nuovo prodotto che è il breve pontificio. Questo breve pontificio doveva servire, secondo me, a nuove esigenze di politica complessiva del papato riguardo alle comunicazioni con altri domini, con altre personalità politiche. E poi del resto non è limitato lì l'attività di questi due. Abbiamo visto la cerchia fiorentina, anche Napoli, citare gli esempi, vero? Ora è chiaro che per questi umanisti, e secondo me c'è da vedere in questa elite di umanisti la conquista attraverso lo scritto di posizioni politiche non indifferenti. In quanto che, per esempio, un'autorità come quella pontificia, il papato, doveva assolutamente sentire un'esigenza notevolissima di personalità come quelle che hanno agito nella cancelleria, cioè della segreteria di Brenni, meglio, molto meglio, molto più precisamente. Cioè persone che sapessero dictare e scrivere in modo notevole, ad alto livello, e quindi doveva così muoversi, cioè l'autorità doveva muoversi verso queste persone, e non il contrario, come adesso era stato un po' così prospettato da un nostro collega, cioè che vedeva invece che la cultura umanistica andava così, si muoveva, non si sa bene per quale motivo, verso l'autorità pontificia o altre autorità. Ma io credo che si possa proprio vedere esattamente il contrario in questo gioco di grafia, ma soltanto di grafia ovviamente, cioè sono le autorità costituite che devono servirsi di questi pochissimi che sanno scrivere. Poi, quanto al fatto tecnico della possibilitazione che possa essere stata maggiormente scritta, favorita da un'attività documentaria, tra virgolette, anziché libraria, sempre tra virgolette, beh, questo naturalmente è da verificare, da approfondire, da vedere, poi in casa massima, eccetera, ci sono i competenti specifici. Io ora così penso questo, l'ho pensato così da cultore di queste discipline, ma non da specialista. Dunque, tu hai posto un sacco di problemi, e adesso non è facile rispondere a tutti. Cercherò di farlo nel minor tempo possibile. Era così intanto per aprire un dialogo su una certa problematica. Ma certo hai toccato dei punti estremamente importanti. Innanzitutto l'antiqua come scrittura di elite, e questo mi pare evidente. Cioè, questo la, non l'ho detto esplicitamente, ma credo che dovesse apparire necessario. Certo è importante però calcare la mano su questo aspetto, perché è un altro di quegli aspetti che può avere determinato o guidato la scelta. Si aveva dunque bisogno di un libro nuovo o diverso comunque per diverse e nuove esigenze, per diversi e nuovi testi. Si è trovata una scrittura nuova, si è trovato anche un complesso di espressione grafica, abbiamo visto nell'aspetto generale del libro nuovo, ma tutto questo è diventato automaticamente patrimonio di una ristrettissima cerchia di creatori di modelli, quelli che possiamo chiamare appunto i creatori di modelli, cioè coloro che in un determinato momento della società ne interpretano determinate esigenze di una elite più vasta e creano i modelli e gli strumenti per l'espressione culturale di questa epoca. È indubbiamente quello che ha detto con l'antiqua. E questo spiega anche l'enorme successo che la scrittura, pur rimanendo sempre scrittura di elite, pur rimanendo per lungo tempo scrittura di imitazione e non di insegnamento, pur non diventando mai scrittura eseguita per usi privati e comuni, l'enorme successo che la scrittura ha avuto nel 400, il suo passaggio nella stampa, la sua leadership grafica durata fino a oggi attraverso la stampa. E non si ha veramente consapevolezza di quanto questa separatezza della antiqua fosse enorme, se non si pensa a quanti libri non in antiqua continuavano ad essere prodotti nel 400. Il panorama grafico del 400 è molto complesso anche da questo punto di vista, non soltanto dal punto di vista dell'uso privato e comune, cioè non c'erano soltanto il 95% degli scriventi, che poi erano pur sempre il 5 o 10% degli adulti, che scrivevano in forme non umanistiche, sul piano dell'uso privato e comune, ma anche un'altissima percentuale, certamente sempre la maggioranza, dei libri che si continuavano a scrivere a mano, erano in forme gotiche. Tutta la produzione in volgare, tutta la produzione ancora di ambiente religioso, tutta la produzione tradizionale della cultura universitaria, continua ad essere in gotico. I libri della nuova cultura sono una infima minoranza, eppure conquistano sul piano grafico pian piano la assoluta maggioranza dal punto di vista delle conseguenze, e si impongono nella stampa. Anche lì però abbiamo libri in gotica per un lungo periodo, e anche lì con una scelta consapevole a un certo punto si arriva a una divisione ben precisa, per cui un certo tipo di testi, i testi classici, i testi del nuovo umanissimo, i testi anche degli umanisti si stampano in tondo, in romano, cioè in antico, i libri della tradizione universitaria, i libri della cultura religiosa, i testi religiosi si continuano a stampare in gotico, questo per un lunghissimo periodo, anche in Italia, non soltanto in Germania o in Francia. E lo stesso avviene naturalmente nell'uso privato e comune, dove per tutto il 400, fino ai primi del 500, continua a essere usata la mercantilista, continuano a essere usate forme di derivazione gotica che non hanno nessuna influenza umanistica. La corsiva. È indubbio che nelle cancellerie la presenza di questi personaggi, creatori di modelli, o comunque in possesso della scrittura nuova, ha giocato un ruolo molto importante. Perché? Perché questi erano gli stessi personaggi che erano in possesso anche di un nuovo modo di dettare, appunto, di un nuovo linguaggio, che era un linguaggio di cui le cancellerie, se volevano figurare, diciamo così, e affermare il loro la loro presenza anche politico-ideologica, non potevano fare altro. C'è un fatto però, che nella scrittura dei brevi, e qui ritorno al discorso puramente paragrafico, il Poggio, che è stato scrittore di brevi nella cancelleria pontificia e nella segreteria dei brevi, appunto, il Poggio non adopera umanistica, ma adopera la corsiva del suo tempo, e che anche nei prodotti della segreteria dei brevi, per quanto se ne conosca, noi abbiamo un quadro che non è molto diverso da quello che ho prima tratteggiato, cioè di un'affermazione graduale e non immediata di elementi umanistici nella scrittura. Quasi si potesse ipotizzare un percorso diverso, come dire, dell'elemento ideologico-politico e linguistico che arriva subito ai nuovi risultati nel testo della nuova documentazione pontificia, di brevi appunto, e invece ci arriva più gradualmente e nell'ambito di un processo più generale e complessivo sul piano grafico, perché i brevi in umanistica vera e propria li abbiamo alla metà del 400 all'incirca, dopo cioè, mentre brevi prodotti all'inizio del 400 già sono nuovi sul piano del linguaggio, sul piano del dettato, sul piano di, diciamo, dell'ideologia. Anche nell'espressione grafica fa non c'è dubbio. Prego. Volevo dire una cosa, cioè, il rapporto tra la Puglia e le cancellerie, diciamo, le più importanti, Firenze, Napoli, sì, e le altre, le minori, i documenti, come venivano scritti, cioè sì, esistevano praticamente due tipi di scrittura, una riservata per le grandi cancellerie e una riservata per le cancellerie minori, dove non esistevano i grandi manifesti che potevano... Sì. Il discorso è più complesso ancora. Cioè, le differenze ci sono all'interno delle stesse cancellerie, come ho detto prima, cioè, l'ho accennata prima. All'interno della cancelleria pontificia certi documenti si scrivono in un modo e certi altri in un altro. Cioè, all'interno della stessa cancelleria pontificia abbiamo, per tutta la prima metà almeno del 400, determinati tipi di documento che si scrivono ancora come si scrivevano nel 300. E invece questi documenti nuovi, su cui giustamente richiamava l'attenzione di Donato, cioè i brevi, per esempio, sono già in scritture nuove, o comunque con elementi nuovi gradualmente. Poi, ogni cancelleria fa storia a sé, e io certo non le conosco tutte, non conosco tutti i prodotti di tutte le cancellerie maggiori e minori e d'Italia. Posso dire qualcosa di quelle che so, che conosco. A Napoli, per esempio, dopo Alfonso, con Ferrante, ma siamo già nella seconda metà del 400, abbiamo documenti in umanistica, e addirittura Napoli è forse l'unico caso di cancelleria che emette documenti in umanistica libraria, cioè in antiqua, ed è molto importante, fenomeno imitativo anche quello piuttosto interessante. Ma solo i documenti più importanti, solo i documenti più importanti anche all'interno della cancelleria napoletana, dove si usavano contemporaneamente altre scritture corsive meno, come dire, meno di apparato. Milano. A Milano con Francesco Sforza, ma anche qui siamo ormai appena oltre la metà del secolo, con Francesco Sforza abbiamo l'uso di un'umanistica corsiva nella cancelleria. A Firenze Herde ha dimostrato che il passaggio a forme umanistiche avviene gradualmente e non ugualmente in tutti gli uffici. Abbiamo poi una cosa piuttosto interessante che nessuno ha mai studiato dal punto di vista grafico. I protocolli della pace di Lodi del 54. Esistono in tutte le cancellerie italiane praticamente, perché la maggioranza degli stati italiani ha firmato o come direttamente interessata o come associata alla pace stessa. Basta andare alla cancelleria di Genova o a quella di Firenze per trovare, come dire, i documenti che ogni cancelleria firmava e inviava poi agli associati o agli avversari per ratificare la pace. c'è un quadro bellissimo della situazione grafica delle varie cancellerie, ed è quanto di più diverso si possa immaginare. Cancellerie settentrionali, quella degli Estensi, per esempio, continuano ad operare forme gotiche fino nella seconda metà del 400. A Genova abbiamo un tipo di umanistica assolutamente particolare nei documenti, un'umanistica genovese che possiamo ritrovare anche in alcuni scrivi di libri. Ecco, per esempio, a Genova e a Napoli abbiamo allora forme tra libraria e documentaria identiche, no? A Venezia invece ha fatto diverso. Venezia non partecipa di questa rinascita grafica nei prodotti di cancelleria. Ecco, la pace di Lodi, uno studio paleografico sulla, e diplomatico sulla documentazione relativa alla pace di Lodi darebbe dei risultati assolutamente sorprendenti da questo punto di vista. Non lo so se ho risposto. No, no, invece. No. Senti, io volevo porre un, sì? un duplice un fatto particolare che si riferisce a questa lettera di Nicola. Ah, sì, certo. Di che anno è? Beh, non si sa, la lettera non è datata, ma è databile al 25, secondo Hoffman del 25. Ecco, perché è interessante che in questa lettera, tra l'altro, io purtroppo ci leggo male perché non ci si sente, a un certo punto si parla di la Badia di San Vittorio, un Valerio Massimo di buona lettera, cioè lui lo desidera, ecco la mia domanda, lui la desidera questa... questo manoscritto di buona lettera antica e per cui si rivolge a Cosimo, faccia un buon cambio, sarebbe comunque un affarone, sempre un affarone. Per avere un esemplare in più o per il gusto di possedere un codice in antico, se a te risulta in qualche modo... Per tutte e due le cose. Per tutte e due le cose. Sì, certo. Cioè, per avere un l'esemplare di buona lettera cui meglio ispirarsi, diciamo. No, per avere un esemplare corretto, perché naturalmente per gli umanisti, come dicevo anche prima, la preoccupazione grafica era sempre accompagnata da quella ortografica. Dunque, un esemplare in lettera antigua doveva essere buono, doveva essere corretto, doveva essere buono e corretto, oltre a essere bello, naturalmente. Questa è la prima domanda. La seconda è di tipo un po' diverso. Noi abbiamo accennato, e credo che su questo punto siamo tutti d'accordo, che la scrittura umanistica è una scrittura di elite. Assolutamente. Ciò non toglie, però, ci sono stati, diciamo, dei centri scrittori, delle officine che producevano libri umanistici. Ah, almeno sì. Io so almeno di quello di Vespasiano dei Bisticci. Oltre a Vespasiano dei Bisticci, ce ne sono altre? Dunque, ecco la mia domanda, perché se ce ne sono altre, allora io sarei più indotto a pensare non tanto a una scrittura di elite, quanto, sulla linea di quello che tu stesso ci hai accennato, ad una scrittura per un determinato tipo di opere, cioè classici, scrittori antichi, eccetera, cioè il determinare di un rapporto non tanto sociale e culturale, quanto piuttosto di genere letterario. Perfetto. Cioè, come noi abbiamo dei tipi di impostazione di una lettera, di un testo, di un documento su una base, di una retorica, così una impostazione anche della scrittura in relazione a ciò che si scrive. E allora si spiegherebbe, e questo l'hai detto molto bene, la prevalenza del gotico che rimane, per esempio, tu hai ricordato giustamente, i testi giuridici ancora nel Cinquecento sono scritti in gotico con l'apparato dei vari commentatori in gotico, eccetera, immagine in gotico, in scrittura gotica, in stampa gotica. Sì. Ecco, cosa ti sembra? Dunque, innanzitutto una cosa estremamente interessante relativamente a Vespasiano da Bisticci. La bottega di Vespasiano da Bisticci è la bottega più importante per la produzione dei libri del 400 italiano ed europeo, perché Vespasiano non ha fornito soltanto libri alle biblioteche italiane, ma anche a Mattia Corvino e così via. Vespasiano da Bisticci lavora fino al 79, poi smette, non si sa bene perché. Vespasiano da Bisticci non conosceva il latino e non sapeva scrivere in antico. Era un uomo indotto che usava una mercantesca elementare proprio da semi-alfabeto. E questo credo che sia un dato da meditare. Lui, l'uomo che arriva, che ha, è vero, inondato l'Italia di libri della nuova cultura, splendidi esemplari scritti in antico da una serie di scribi al suo servizio, non solo non sapeva scrivere l'antico, non solo non conosceva il latino, ma scriveva egli stesso in una scrittura la cui rozzezza è difficilmente immaginabile. Era un semialfabeta vero e proprio. Ma questo è un dato che non risponde alla tua domanda, se non indirettamente, sul piano dell'uso anche di elite dell'antiqua, che Vespasiano non era capace di adoperare, pur avendo da bravo artigiano cartolaio capito l'importanza della scrittura e del prodotto nuovo. Il tipografo che fa una tipografia. Esatto. Per quanto riguarda il discorso di altri centri, sì, gli altri centri c'erano, ma erano sempre e sono stati sempre, in genere a cavallo, cominciano a diffondersi fuori di Firenze, a cavallo tra la prima e la seconda metà del 400, e poi si diffondono nella seconda metà del 400, centri annessi a biblioteche signorili. E poi, stiamo attenti a parlare di centri. Si tratta, quando si parla di centro scrittorio, si commette sempre un errore in un certo senso, si pensa al tipico centro scrittorio alto medievale. No, poi, io pensavo a un'officina, ecco, un'officina. Ecco, perché l'officina. Anche l'officina è qualcosa di ben preciso, cioè si pensa all'officina degli stazionari presso le sedi universitarie, magari, e si ha sempre in mente l'idea di tanti scribi che lavorano insieme. Questo non è mai stato, se non nell'alto medioevo, quando cioè si produceva all'interno di un monastero. La produzione libraria avveniva secondo le regole della produzione artigianale, tardo medievale, che era produzione a domicilio. Cioè non esisteva la fabbrica, non esisteva l'officina. Vespasiano non chiamava gli scribi a casa propria e o nella sua bottega e faceva loro scrivere tutti insieme in una sede unica. Vespasiano dava a ciascuno dei libri da trascrivere e questi se li portavano a casa e trascrivevano ognuno per suo conto. Lo stesso avveniva nel tipo di produzione che poteva svolgersi alla corte romana, alla corte di Napoli, alla corte di Malatesta, e poi più tardi a quella di Gonzaga, a quella milanese, e così via, tenendo fuori l'area occidentale, l'Italia settentrionale, dove l'umanistica praticamente non è mai arrivata, che è area francese. Cioè si trattava pur sempre di scrivi in singoli e isolati, e ho dimenticato Urbino naturalmente, che è molto importante, poi Montefeltro. Anche in quel caso abbiamo degli scribi singoli, a volte i bibliotecari di casa, come del Montefeltro, i quali scrivevano codici in antiqua, non tutti insieme, non come centro scrittorio, bensì come singole persone per la biblioteca del principe. Ora, se questa non è produzione di elite, non ne saprei trovare un altro esempio di produzione di elite di questo tipo. È vero però che, almeno nella seconda metà del secolo, via via che l'umanistica si diffonde, sempre come scrittura libraria, pur non diventando mai scrittura di uso e di insegnamento, diventa una scrittura legata a un certo tipo di testo. E via via che questi testi si diffondono, è ovvio che la scrittura diventa anch'essa meno di elite, se non altro sul piano dei lettori. Cioè c'è da distinguere anche un problema di elite di scrivente e di elite di leggente. Coloro che magari di propria mano non sapevano scrivere in antico, e non interessava loro scrivere in antico, sapevano benissimo leggere e apprezzare un libro scritto in antico. E l'area dei lettori di antico è molto più vasta dell'area degli scrittori di antico. Su questo non c'è dubbio. Anzi, nella seconda metà del 400 abbiamo un rovesciamento. Lorenzo il Magnifico non sa scrivere in antico. Ma è il tipico lettore di élite di Antiqua. I suoi scribi, o gli scribi che operavano appunto per Vespasiano da Bisticci, molto spesso non sono uomini di cultura, sono tecnici dell'antico. Si ha nella seconda metà del 400 un rovesciamento. Molto spesso gli scribi, dico che sono a livello di cultura di Vespasiano da Bisticci, un po' più su, naturalmente, il latino devono conoscere, ma sono delle modeste figure di scribi che riproducono l'antico perché come tipografi, perché è la scrittura che devono adoperare. Mentre il lettore che non sa scrivere in antico, ma che è un uomo colto, lo stesso poliziotto non scrive in antico, ma che il lettore colto vuole che quei testi siano scritti in antico. A questo punto l'antico non è più scrittura di antico. Ciò non toglie che il testo in antico continui ad essere un testo di élite per una minoranza meno minore nel primo 400, ma pur sempre minoranza, che legge l'antico. Distinguere dunque un'elite di lettori da un'elite di scrittori. Tenere presente che nella seconda metà del 400 l'elite di scrittori non è più elite, ma è semplicemente categoria di tecnici. Ecco, allora, se io ho ben capito, noi dobbiamo un pochino correggere, mi riferisco soprattutto a Vespasiano di Bisticci e compagni, diciamo, e tipi analoghi, noi dobbiamo allora sentirli non come diretti, ispiratori, eccetera, ma come commercianti, diciamo, esatto, così, che come il lanaiolo prendeva lana delle fiandre, la distribuiva ai tintori, esatto, e poi che so io, agli scardassatori, e poi agli sgrassatori, e poi ai tintori, certo, eccetera, così c'è il, diciamo, il Vespasiano da Bisticci, prendiamo. Riprendiamo il caso più classico, è il caso più notevole, che prendeva per così dire la pergamena, la rotolava, esatto, e la dava al calligrafo X, il quale poi a sua volta la passava al miniatore, sì, Y, sì, e poi alla fine il prodotto finito, diciamo, sì, tornava a Vespasiano, che ne era in realtà il commerciante. Perfetto. Quindi questo è, no, è un punto che dal discorso che noi abbiamo un po' fatto oggi è estremamente interessante. Sì, però come correzioni che adesso tu ci apporterai. Andiamoci piano. Adesso, per Vespasiano da Bisticci è senz'altro vero. Solo per lui. O per pochi altri casi. Come lui. Occorre distinguere il caso estremo di Vespasiano da Bisticci. Quello lo consideriamo un caso estremo, da quello che può essere rappresentato dagli scribi che operano presso le grandi corti. Indubbiamente, un bibliotecario dei Montefeltro, un bibliotecario dei Malatesta, il cinico a Napoli, non erano grandi personaggi culturali, ma il loro bagaglio culturale lo avevano. Il cinico ha operato, per esempio, anche come traduttore dal latino di determinati testi in volgare. La sua cultura non andava molto più in là, ma era certamente superiore a quella di Vespasiano. È indubbio però che questa funzione di promotori l'hanno avuta soltanto i primissimi, la prima generazione di scribi umanisti, non di scribi umanistici, ecco la differenza. Niccoli e Poggio, ma sono stati Niccoli e Poggio. Questo nessun dubbio. Ecco, se anche avessero scritto in scrittura elementare sarebbero rimasti Niccoli e Poggio. Mentre invece, appunto, una seconda o terza generazione pullula di personaggi mediocri o minimi. Un Antonio Di Mario chi era? È stato di seconda generazione. Un Gherardo del Ciriaggio chi era? Erano dei notai della operanti a Firenze, sia sul piano di notai privati, sia sul piano a volte di notai di cancelleria, i quali adoperavano la loro abilità di tecnici, di scrittori di antico, per scrivere codici a prezzo. E questa è la figura normale dello scriba di antiqua a cavallo tra la prima e la seconda metà del secolo e soprattutto nella seconda metà del secolo. Che poi avessimo addirittura fenomeni come quello di Vespasiano, si tratta di eccezioni estremamente interessanti, però direi legate soprattutto alla fisionomia anche della produzione artigianale fiorentina, che è diversa certo da quella che poteva avere a Napoli o a Urbino o a Rimini e a Cesena, ecco, e così via. Anche in questo caso perciò il discorso è estremamente complicato e complesso, però direi quella distinzione di fondo che abbiamo fatto prima tra l'elite dei lettori e l'elite degli scriventi diventa sempre più vasta via via che procediamo nel secolo. Ed è, le due aree quasi corrispondono soltanto nei primissimi anni. Nei primissimi anni del secolo, l'elite di scrittori e l'elite di lettori praticamente coincidono. Via via si differenziano, l'una si allarga, l'altra rimane limitata, e poi si rovesciano, si capovolgono quando l'elite degli scrittori diventa un'elite di puri tecnici, praticamente culturalmente non è più un'elite. Quindi perché dal punto di vista del discorso che un po' si sta tenendo in questi giorni, è estremamente interessante vedere come si passa dallo scriba umanista allo scriba umanistico, cioè, che significa anche una differenziazione profonda di cultura. Perché si passa dal creatore della scrittura, creatore di modelli, Poggio o il Nicoli di cui ci hai parlato, creatore di una moderna, eccetera, a quelli invece che sono ripetitori in base ad una tecnica di apprendimento scrittore. Ecco, quindi direi che ci hai dato delle idee, almeno dal mio punto di vista, nella discussione ci hai arrecato dei complementi, per quello che mi pare si possa dire dal nostro punto di vista, preziosi a quello che tu ci hai detto nella parte iniziale. Scegliete, avete alzato la mano contemporanea. Vorrei sapere come si presenta la questione della scrittura e la questione del libro nel numerismo tedesco. Dunque, non ne so molto, e molto meglio potrebbe rispondere a una domanda di questo genere Emanuele Casamassima, che ha studiato anche il libro manoscritto in Germania e fuori d'Italia. Comunque esiste un problema della diffusione della scrittura italiana, ormai possiamo dire italiana perché contraddistingueva l'Italia rispetto alle altre nazioni europee fuori d'Italia, ed è un problema tardo, piuttosto tardo. Indubbiamente da questo punto di vista quello che diceva prima Mantelli mi pare abbastanza importante e vero, cioè che lo studioso non italiano che veniva in Italia nella seconda metà del 400 soprattutto imparava a conoscere questi nuovi testi attraverso un nuovo tipo di scrittura, un nuovo tipo di libro, e imparava a scrivere in antico, imparava a scrivere in umanistica corsiva, diciamo, se vogliamo usare questo termine. Riportava poi questo tipo di scrittura, questo nuovo tipo di libro, fuori in Germania, in Francia, in Inghilterra. E continuava a scrivere a volte in queste scritture, a volte no. Abbiamo poi un altro fenomeno, che è quello degli scribi non italiani di antiqua in Italia. L'ambiente, la biblioteca dei pontefici nella seconda metà del 400, soprattutto negli anni 60, ha avuto un numero di scribi tedeschi, chierici in genere, che scrivono una splendida antiqua e che appunto hanno imparato questa antiqua sui modelli che offriva la presenza di esemplari carolina a Roma. A questo proposito posso dire una novità assoluta, cioè che la antiqua romana degli anni 60, scritta dagli scribi tedeschi a Roma, ma anche da scribi italiani a Roma, è un'antiqua che si presenta con caratteristiche tutte sue proprie, dovute al fatto che a Roma i codici in carolina che potevano essere usati come esemplari non presentavano la pura carolina che si trovava in Toscana o altrove, bensì una scrittura tipica della zona romano-laziale che è la romanesca, dei secoli X, XI, XII, XII. gli scribi tedeschi degli anni 60 operanti a Roma hanno imitato questa, e l'antigua romana si distingue dalle altre per questo. Dunque, anche in questo caso, fenomeno di imitazione. Imitazione che continua poi fuori d'Italia, in Germania, in Inghilterra e in Francia, sul piano non tanto, forse, non solo della produzione libraria, ma anche di cancelleria. Ma tutto questo avviene molto tardi, avviene cioè fra 400 addirittura e 500. Il libro a stampa tedesco adotta raramente, del resto, il carattere tondo. Lo adotta, ma con molte difficoltà. Lo stesso avviene in Francia e anche in Inghilterra. Sostanzialmente la Germania rimane zona di gotica, tranne eccezioni singole, e le eccezioni sono più di tedeschi operanti in Italia che di tedeschi operanti in Germania. Abbiamo scribi tedeschi operanti a Roma che scrivono splendida anche corsiva e sono abbastanza conosciuti, e operavano in curia romana, e si trattava naturalmente di Chieci, e una presenza massiccia dell'antigua o della corsiva italiana in Germania non c'è. Esistono casi eccezionali anche a livello di singole persone, l'imperatore Massimiliano, per esempio, o scribi, poi calligrafi del primo Cinquecento tedesco, che sanno scrivere contemporaneamente più scritture. A questo punto, nel Cinquecento, abbiamo anche trattati di calligrafia. I grandi trattati di calligrafia tedeschi del primo Cinquecento ospitano sempre esempi anche di antiqua, naturalmente. Ormai è diventata una delle grandi scritture europee, e anche fuori d'Italia, pur se non in posizione egemone, la si conosce, la si adopera. In Francia, per esempio, nella seconda metà del 400, abbiamo il caso singolarissimo della cancelleria e della biblioteca di Re Renato d'Angio, che si richiamava del resto al suo titolo di re italiano, perché non ha mai rinunciato al titolo di re di Sicilia, di Napoli e di Sicilia. Ebbene, alla cancelleria di re Renato d'Angio si scrivono documenti non in bastarda francese, ma in umanistica corsiva, e i libri di re Renato d'Angio sono parte in bastarda, parte in gotica, in bastarda se volgare francese, in gotica se in latino, in umanistica se in volgare italiano, o in latino di argomento. Format des Buches gesprochen, dass im Zeitalter des Humanismus die Bücher kleiner werden, den persönlichen Gebrauch. Ich habe eine kleine Frage, bitte schön. Gibt es Fälle, entsteht daraus eine Tendenz, wo das Format des Buches der traditionellen Funktion nicht mehr entspricht, wo zum Beispiel liturgische Texte, die für Gottesdienste geeignet sind, sich plötzlich in der Tasche eines Humanisten befinden, im kleinen Format. Sì, dunque, l'avevamo accennato prima questo problema. Il problema del formato è un problema però sul quale non esistono ancora degli studi precisi. Il libro moderno di formato medio o piccolo nasce nel periodo umanistico, nasce nel 400, ma non è stato il primo esempio di libro di piccolo formato. Il libro classico greco-latino, l'avevamo detto prima appunto in una discussione informale, era di piccolo formato. Il formato è legato alla funzione, non c'è dubbio. È legato anche a fatti tradizionali, però, non soltanto alla funzione del libro. Nessuno ha mai detto che un libro di un certo tipo debba essere di piccolo formato o un altro di altro testo, di altro tipo, di grande formato. È l'uso che determina i formati, e questo avviene anche nel Medioevo e perciò anche nel Rinascimento. Il libro liturgico è di grande formato, però bisogna intendersi. Non tutti i libri con testi religiosi sono prodotti a fini liturgici. Esiste la Bibbia che bisogna portare appunto in tasca, esiste il sermonario, la raccolta di sermoni che qualsiasi predicatore doveva portare con sé, esiste il testo grammaticale che il maestro di grammatica doveva portare con sé quando si trasferiva da un centro all'altro, e così via. Tutti questi libri venivano perciò prodotti anche in formati portatili. Il problema del libro da tasca, del libro da bisaccia, il libro da trasporto esiste anche nel tardo Medioevo. È ovvio che però la forma tipica del libro scolastico medievale è il libro grande, su due colonne, con grandi margini, era funzionale a un certo tipo di studio anche. Contemporaneamente esisteva in minoranza, direi, il libro piccolo. Con l'umanesimo la prevalenza del libro piccolo è legata al suo uso. Cioè legata al fatto che non è più un libro di lettura comunitaria, di studio comunitario, ma è un libro di lettura privata, un libro di lettura singolare. E arriviamo appunto alla fine del 400 con la nascita del libro moderno, di formato molto, molto piccolo, che non è più adatto nemmeno al commento, perché non ha più margini, e che è chiaramente finalizzato alla lettura privata. A questo punto, naturalmente, il libro piccolo si estende come modello a qualsiasi tipo di libro. Sopravvivono ancora nel 500 i grandi formati, sopravvivono ancora nella tradizione giuridica, nella tradizione medica, nelle tradizionali materie di insegnamento universitario. Ma il libro piccolo diventa la norma e si trasmette fino a oggi. C'è da tenere presente però un fatto, che poi in epoca moderna il libro grande, di grande formato, conserva una sua funzione, come dire, di apparato, di lusso. Il grande libro antiquario della filologia moderna del tardo Cinquecento, del Seicento, il grande libro di apparato, di lusso, delle corti nel periodo barocco, il libro delle feste, eccetera, riprendono i grandi formati. È un fatto che conosciamo anche oggi. Dei libri oggetto di grande formato sopravvivono tutt'oggi e hanno una loro precisa funzione, che è una funzione appunto di celebrazione, che può essere culturale o può essere politica, a seconda, e poi io mi sento la stessa cosa. Ecco, il problema del libro illustrato è un problema importante. L'illustrazione scientifica deve avere un suo rapporto col vero. Per avere un suo rapporto col vero non può diventare minima, deve mantenere un suo formato. Ecco, in quel caso la funzione del formato ridiventa una funzione non più di apparato ideologico, diventa appunto una funzione legata a un uso specifico di carattere scientifico. In quanto poi anche lì a un certo punto giochi una questione di apparato. Purtroppo dimenticato, ma c'è uno splendido trattatello di arte militare, miniato in maniera prodigiosa, perché si può dire che ogni pagina è una pagina scritta e una pagina miniata, ma che è, come giustamente adesso dicevi, di formato non tascabile ma piccolo. Di consultazione, diremo noi, pratica, non sono più i grandi formati, invece è proprio... Ma di quando è? È della seconda metà del 400. Non c'è ancora il grande formato scientifico. No, quello è quello appunto, come dicevi poco fa, ritorna con 500-600. Del resto l'esigenza non era tanto scientifica in quello della scuola della Quattrocento, era puramente illustrativa, probabilmente ripeteva iconografia anteriore, le tre ricerche dei vari... Però quando si deve fare il trattato militare nel 600, nel 700, dove si deve far vedere il piano di battaglia, le fortificazioni, allora bisogna fare una doppia parte, perché il tecnico ha bisogno di vedere, di capire. Della scrittura, con un riferimento speciale alla storia tedesca, mi pareva ancora più chiaro questa distinzione tra scrittori umanisti e scrittori umanistici, in quanto le ha accennato agli scrittori della corte pontificia, sì, della cancelleria pontificia, che erano tedeschi, sì, perché io penso a coloro che sono tornati dalla corte pontificia a Germania nel 400, pochi che hanno avuto dei legami ancora con la Germania, ma in speciale Giovanni Rogers, sì, è diventato poi il vescovo di penso pure a chi pareva di non aver fatto fiorire niente proprio di quel contatto con l'umanismo. Sì. E poi penso anche a Giacomo Questenberg, che è un grande scrittore di corsiva, sì, umanistica, però a Roma. Chi pareva avere neanche nella fare la fine, questo è ancora molto più tardi. Sì, questo è bellissimo. Nell'epoca del Papa Medici. Certo. Chi non vorrebbe aver fatto un contatto neanche con il concetto dei umanistici tedeschi. Sì. Ma vabbè, in questo vedo ancora più questa distinzione che si deve porre tra umanisti e umanistici. Però volevo domandare perché ha accennato che Germania è rimasta zona gotica. Sì. Se non sarà il caso che dove l'umanesimo ha fatto a Fuschi Basto, preso piede, cioè, ha preso piede, affermato. Che è il punto, appunto, penso ai circoli di Vienna, attorno di Massimiliano, attorno a quella della Kempis, che era la di introdurre la scrittura gotica, la scrittura massiva in Germania. Se, diciamo così, in apparenza, con riferimento al fatto che l'umanesimo in Germania era sempre una cosa così staccata, ancora più ristretta. Non volevo dire quello, volevo dire che l'umanesimo era sempre una cosa così staccata da se stesso, non era una cosa che si trovava dovunque, come in Italia, però è rimasta una cosa che si trovava qui a Strasburgo, qui a Augsburgo. Geograficamente disperso. Dispersissimo, però volevo domandare comunque se dove si trova l'umanesimo, se sarà il fatto che si trova pure l'introduzione di questo scritto o no. Sì, io credo di sì. In modo però in modo sempre più limitato che in Italia. Cioè anche l'introduzione, poi bisogna intendersi su che cosa significa introduzione di umanesimo, cioè in Italia si tratta, come dire, di una cultura abbastanza organica, e fuori d'Italia molto spesso si può trattare soltanto di introduzione di testi nuovi e diversi. Allora l'introduzione di testi nuovi non è soltanto un fatto disperso geograficamente, diventa un fatto che non incide così a fondo come può aver inciso invece, appunto, in Italia sul piano generale della civiltà grafica, diciamo. E allora è possibile che una presenza di testi nuovi avvenisse, sia pure dispersa geograficamente, senza avere influenze dirette sulla produzione grafica e manoscritta e a stampa. Cioè gli stessi testi in Germania si continuavano a produrre anche in gotica e non soltanto in scrittura italiana, e la scrittura di tipo italiano restava patrimonio di pochissimi che avevano appreso in Italia quella scrittura, che magari, poiché erano tutti scrittori di due o tre scritture, naturalmente, perché il tedesco che era venuto in Italia a imparare la corsiva o l'antica non aveva certo dimenticato le sue due gotiche, la corsiva e la formata, poiché questo avveniva, ritornando in un ambiente dove la gotica era la scrittura egemone, ritornava all'uso delle sue due scritture, oppure continuava a usare l'italica come italica o l'antica, come fatto puramente occasionale. Diverso è il caso in cui troviamo appunto dei principi, come poteva essere Massimiliano, i quali impongono un tipo anche grafico diverso. E c'è il caso di Dürer, del resto. Il caso di Dürer è molto importante. Dürer è un artista il quale risente profondamente anche sul piano grafico della scrittura italiana e fa dei modelli di lettere capitali eleganti, epigrafiche, che ha preso in Italia. E in Germania tutti i trattatisti di calligrafia nel Cinquecento, come accennavo prima, lo stesso Dürer e tutti gli altri, riportano e sanno adoperare molto bene esempi anche di capitali, della rinascita delle capitali lapidarie, non abbiamo parlato, comunque esempi di capitali lapidarie appresi in Italia o appresi da modelli italiani. Quanto al fatto che rimanga in Germania un fenomeno disperso geograficamente e isolato, bisogna stare molto attenti. Lo è anche in Italia. Io accennavo prima a questa presenza enorme di produzione libraria che rimane anche in Italia di tipo gotico. Cioè, non bisogna, bisogna liberarsi da questo idolum secondo cui in Italia la cultura del 400 significa umanismo. Non è vero, non è mai vero. Se intendiamo cultura in un senso complessivo, naturalmente, non soltanto le avanguardie, i creatori di modelli, appunto, bensì una cultura istituzionalizzata, le università, e una cultura come espressione di tutti coloro che partecipano al movimento culturale in generale, anche ai più bassi livelli. Anche in Italia avviene questo. Certo, geograficamente questo fenomeno è più imponente, più legato, perché Cesena, Urbino, Milano, eccetera, però ci sono aree che di questo movimento non partecipano affatto, eppure sono italiane, tralasciando il Piemonte, la zona occidentale, che non è italiana nemmeno di lingua, che è francese, ma il Veneto, per esempio, o nell'Italia meridionale, escluso Napoli, tutto il resto, perché noi quando parliamo di Italia meridionale, di Regno, pensiamo sempre a Napoli, ma oltre Napoli c'è tutto il resto, e tutto il resto non partecipa. Ci sono immense aree geografiche che non partecipano di questo né sul piano grafico né sul piano culturale. E poi la Sicilia. Ora, non è solo un quadro perciò extra italiano, questo della presenza di punte isolate di umanesimo grafico e di umanesimo culturale. È un fenomeno generale anche dell'Italia, anche se in misura diversa. Resta soltanto ancora una volta di ringraziare specialmente al